Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano con le note della Sinfonia dal Nuovo Mondo di Anton Dvorak, l'Allegro con fuoco. Iniziamo il nostro incontro di oggi. Buongiorno e buon pomeriggio ad Emilio Rossi. Buongiorno. Emilio Rossi, economista, senior advisor di Oxford Economics e anche responsabile di Econ Partners, mi sembra. Econ Partners. Econ Partners, che è una società di consulenza economica, quindi essenzialmente un economista. Siamo alla vigilia del nuovo anno, che inizierà tra un paio di giorni, e dato che la fine del mondo l'abbiamo superata senza problemi, e quindi guardiamo un po' a questo 2013 facendo un bilancio del 2012. Che cosa ci ha insegnato il 2012 e cosa dobbiamo augurarci o magari temere per il 2013. Allora, Emilio Rossi, da economista, in poche parole, il bilancio del 2012, diciamo un anno di transizione. Un anno di transizione, un anno che finisce sicuramente meglio di come è iniziato, un anno che ha visto l'Europa rischiare di trascinare, ma rischiare seriamente, di trascinare il resto del mondo in un baratro economico da cui sarebbe stato difficile uscire o capire come uscire, e che invece finisce con un'Europa che tutto sommato ha messo in piedi una serie di iniziative, soprattutto per la parte di tipo diciamo monetaria, di interventi della Banca Centrale Europea, ma comunque anche per quello che riguarda il sentiment, il cambiamento. C'è stato un cambiamento fondamentale, direi, nell'approccio di una serie di paesi del nord Europa alla crisi europea. Questo è il punto chiave, credo, del 2012, il fatto che si possa guardare al 2013 con un po' più di fiducia proprio rispetto a questo che era il problema chiave che si è presentato all'inizio del 2012. Quindi possiamo dire che nel 2012 c'è stata un po' di buona volontà da parte dei paesi maggiormente in difficoltà, a cui si è associato un po' più di realismo da parte dei paesi meno in difficoltà e che potevano, che possono appunto aiutare l'Europa ad essere più compatta. Quindi le manovre che ci sono state, anche dure e faticose da parte di Grecia, di Spagna e di Italia, ma anche una maggiore apertura almeno potenziale, soprattutto in prospettiva, da parte di Germania e degli altri paesi forti, dell'area forte dell'euro. Assolutamente sì, condivido pienamente questa analisi. Queste misure di austerità erano comunque necessarie. Ci si dimentica spesso di quella che è la variabile tempo, che invece in economia è una variabile fondamentale. Nel momento in cui è iniziato il 2012 avevamo una situazione veramente di rischio del baratro, e credo che veramente la parola baratro vada tenuta ben presente, e quindi anche la riluttanza dei paesi del nord Europa era ben giustificata in quel momento, mentre le politiche di austerità che sono state implementate nei paesi PIGS erano fondamentalmente necessarie, non c'era altro modo. Ecco, si può dire che la Banca Centrale Europea in fondo ha comprato del tempo per lasciare questi paesi la possibilità di attuare le misure di austerità e di rigore. Cioè la Banca Centrale Europea, con i suoi interventi e anche con la sua presenza, perché certe volte è bastato che Draghi dicesse noi ci siamo e faremo il necessario per calmare un po' i mercati. Quindi la Banca Centrale Europea è stata fondamentale nel 2012. Assolutamente sì, fondamentale, e in una situazione obiettivamente molto difficile, perché ergersi in maniera abbastanza importante contro quello che era che è ancora l'azionista di maggioranza in un certo senso della Banca Centrale Europea, spalleggiato anche da altri importanti azionisti come dalla Finlandia all'Olanda ad altri paesi del centro-nord Europa, non era cosa politicamente facile da fare. È stato un passaggio in quest'estate, credo, veramente difficile per Draghi, e credo che gli dobbiamo sicuramente riconoscenza. Ecco, io magari prima di passare a vedere come sarà il 2013, parliamo un po' di Emilio Rossi, economista, abbiamo detto, senior advisor di Oxford Economics. Cos'è Oxford Economics? Oxford Economics è una delle maggiori società al mondo di analisi e previsione economica. Nasce da una costola dell'Università di Oxford ed ha ancora grosse relazioni con quell'università e con i suoi professori di economia. È presente fondamentalmente in tutto il mondo e io sono, come dire, un indegno rappresentante di questa grande società. Si dice che da Cambridge escono i keynesiani, da Oxford escono invece i neo-keynesiani, oppure la vostra prospettiva è un po' più realista e prescinde un po' da queste impostazioni ideologiche? Sì, direi che è piuttosto pragmatica l'impostazione di Oxford in generale e di Oxford Economics in particolare. Comunque, ecco, noi abbiamo come linea sempre supportato un'ipotesi dove al fianco dell'austerità fosse tenuto ben presente la necessità di, come dire, di non spingere troppo sulla leva, soprattutto quella di tipo fiscale, sulle tasse, perché e magari l'austerità farla piuttosto sul taglio delle spese, ma comunque di affiancare sempre all'austerità una politica monetaria decisamente più espansiva, così come stanno facendo per esempio gli Stati Uniti e hanno fatto ormai da alcuni anni, e che invece in Europa, come dicevamo prima, era decisamente più difficile implementare. Ecco, quindi questo era un po' l'approccio nostro. Ecco, magari vedremo appunto questi compiti anche della Banca Centrale Europea, Oxford Economics e con Partners, poi l'altro fronte, consulenza economica, invece consulenza per le imprese. Consulenza per le imprese, valutazione della dimensione dei mercati, valutazione di scenari, quindi di che cosa significa per una impresa una situazione che è diversa da quella di una previsione di base, che è un po' quella del... come dire, su cui tutti sono d'accordo, no? Ecco, invece di valutare semplicemente una baseline, uno scenario di baseline, diamo l'opportunità anche di valutare per il mercato specifico del cliente l'impatto di situazioni diverse. E come mai le è venuto in mente da piccolo di fare l'economista? Ah, bella domanda. Allora, il motivo è abbastanza semplice. A me in realtà interessa moltissimo la storia. Non mi piacerebbero fare il professore. E allora ho pensato che effettivamente il mestiere dell'economista fosse un qualcosa che si avvicinava in qualche modo a quello che era un buon compromesso tra, come dire, portare a casa un lavoro interessante e allo stesso tempo remunerato. Ecco, ma non hai mai pensato durante appunto questo cammino dell'economia che fosse vera quella definizione di Carlyle secondo cui l'economia è una scienza triste? Io l'economia come scienza triste sinceramente non l'ho mai vista. L'economia intanto è una materia di tipo sociale e quindi di per sé per me ha un'attrattiva. Ho sempre pensato nel corso di tutto il percorso che io personale che ho fatto, che in realtà io stavo aiutando e sto, e credo questo in tutta sincerità, di dare un piccolo contributo a quello che è il miglioramento della performance delle imprese per cui ho lavorato e alle quali ho fatto consulenza, perché fondamentalmente sono stato poi quasi sempre con società di consulenza. E che quindi migliore fosse questa consulenza, tanto meglio sarebbe stata la performance di queste aziende, che avrebbero potuto mantenere livelli occupazionali, espandersi all'estero, ottenere un miglioramento della loro pianificazione, quindi un contributo al sociale. Non mi sembra triste, sinceramente. Ecco, forse è troppo ambizioso pensare che l'economia dia la felicità, però può essere appunto uno strumento utile per una crescita, poi dopo ogni persona resta responsabile un po' delle sue azioni e anche un po' dei suoi sentimenti, però ci vuole un po' anche di sentimento e anche di emozione nell'affrontare l'economia. È una scienza, in fondo, una disciplina, forse parlare di scienza è un po' troppo, è una disciplina, forse diciamo così, che ha un suo fascino proprio perché lascia spazio alle scelte della persona e anche per questo è imprevedibile. Ma io credo che sia fondamentale appunto questa distinzione tra disciplina e scienza, e qui nasce la contraddizione di base di quella che è l'economia, di come viene intesa l'economia e del motivo per cui poi viene considerata anche corresponsabile in qualche modo della grande crisi che si è verificata nel 2008. La contraddizione sta nel fatto appunto che, pur essendo materia, disciplina di tipo sociale, cerca se anche lei stessa, l'economia, certo, gli economisti cercano di dargli una base di tipo scientifico dal punto di vista matematico. C'è tantissimo, un approccio matematico è fondamentale, forse negli ultimi due decenni si è un po' andati oltre e si è dimenticato che effettivamente l'economia è cosa diversa dalla finanza, dove molta matematica è ormai sfociata nell'abbandono dell'analisi economica. Ancora con le note di Anton Dvorak, l'Allegro con fuoco della Sinfonia del Nuovo Mondo, riprendiamo il nostro incontro con Emilio Rossi, Senior Advisor di Oxford Economics, presidente di EconPartners. Abbiamo parlato nella prima parte un po' di questo bilancio del 2012, un anno partito con grandi paure, con un mondo, un'Europa soprattutto sull'orlo del baratro, ma che poi si è appunto sviluppato con una maggiore tranquillità anche sul fronte dei mercati, con una soluzione non ovviamente definitiva ma progressiva dei problemi, con dei paesi, soprattutto i paesi europei, mediterranei, che hanno un po' fatto la loro parte nelle politiche di austerità e di rigore, con i paesi del nord Europa che hanno più, con più realismo, affiancato queste prospettive. E quindi 2013 si apre un po' con, certamente con tante incognite, ma anche con una prospettiva di mercato, almeno sui mercati finanziari, di maggiore tranquillità, Emilio Rossi. Ma sicuramente la situazione, la volatilità dei mercati lo testimonia, la volatilità ridotta dei mercati lo testimonia, la situazione è assolutamente più tranquilla rispetto a 12 mesi fa, questo anche grazie al lavoro fatto in Italia, sul quale poi si può discutere nel merito, ma fondamentalmente ha contribuito in maniera importante alla stabilizzazione del sentiment nei confronti dell'Europa in generale e dell'euro. 2013 ci porta davanti una situazione dove il rischio maggiore in questo momento potrebbe essere riguardante gli Stati Uniti. In realtà gli Stati Uniti sono in una fase di rallentamento, sono stati perlomeno piuttosto a lungo, senza entrare in recessione, ma comunque in una fase di rallentamento, hanno cominciato a dare segnali di ripresa, ma si trovano davanti una situazione di finanza pubblica esplosiva. Però hanno dalla loro parte il fatto che possono contare su una banca centrale e su un dollaro, che comunque, come dicono, un dollaro vale sempre un dollaro, e quindi possono appunto fare una politica monetaria molto più espansiva, molto più accomodante di quella europea, anche se bisogna vedere poi se la politica monetaria è sufficiente. Negli ultimi tempi sembra essere sufficiente un po' a frenare gli stimoli speculativi, gli stimoli recessivi, ma non a rilanciare l'economia. Ma io direi che la politica monetaria espansiva che è stata fatta già negli Stati Uniti da almeno un paio d'anni ha consentito di evitare un periodo di recessione, ecco, certo. Questo sicuramente l'ha evitato. Siamo ormai ai livelli però più o meno massimi di questa espansione. Pensare che in una situazione di eventuale peggioramento delle finanze pubbliche o comunque di mancato accordo in maniera esplicita, in maniera chiara, per quello che riguarda la soluzione dei problemi delle finanze pubbliche, che questo possa portare un'eventuale riduzione della crescita, questo mancato accordo sulle finanze pubbliche, possa essere risolto da una politica monetaria ulteriormente espansiva, può essere difficile, perché appunto è già certo. In essere una in maniera molto importante. Ecco, ma in questa prospettiva gli Stati Uniti peraltro restano il motore, il traino un po' dell'economia mondiale. Si è parlato molto, si parla molto di Cina, di Brasile, di India, che sono importanti, continuano a crescere anche se meno degli anni passati, però la loro forza, il loro impatto è ancora inferiore a quello degli Stati Uniti sull'economia mondiale. Sì, chiaramente il motore centrale rimane il Nord America. Su questo non c'è dubbio. Devo dire che personalmente sono anche piuttosto ottimista comunque sull'andamento degli Stati Uniti, l'abbiamo anche ripetuto nella nostra ultima conferenza qui a Milano. Pensiamo che già nel 2013 la crescita possa essere interessante e tornare addirittura intorno al 3% nel 2014, quindi pensiamo che comunque la cultura pragmatica degli americani sia in grado di risolvere l'impasse dal punto di vista delle politiche fiscali. Detto questo, è vero quello che dicevi, che gli altri paesi, i cosiddetti BRIC in particolare, ma diciamo in generale gli emergenti, dipendono ancora dalla crescita dei paesi già sviluppati o avanzati, diciamo. Tuttavia bisogna anche tenere presente del fatto che negli ultimi anni questi paesi che chiamavamo in via di sviluppo, oggi sono emergenti, sono stati capaci di, pur rallentando la crescita, di tenere delle crescite piuttosto alte. Quindi dal punto di vista delle loro politiche non vedrei un problema grosso anche dove ci sia un rallentamento ulteriore del motore occidentale, diciamo. Ecco. Ci può essere un rischio di qualche bolla speculativa, per esempio, si è parlato della bolla speculativa immobiliare in Cina, dei rischi appunto anche sul Brasile di una crescita che può creare una grossa inflazione interna, ci sono dei rischi anche in questi paesi. Facevo riferimento alle politiche di questi paesi. Anche in presenza di un rallentamento del motore occidentale, questi paesi hanno uno spazio di manovra per le loro politiche fiscali e monetarie che nel mondo occidentale in questo momento è decisamente meno presente. Sono paesi che fondamentalmente, con qualche eccezione, ma fondamentalmente hanno i bilanci pubblici a posto, hanno una politica monetaria che finora è stata... facciamo l'esempio della Cina. Ecco, la Cina ha manovrato in maniera eccellente la sensazione e il crearsi vero di una rischio di bolla speculativa nel campo immobiliare. Sono stati in grado di aumentare i tassi di interesse quando è servito, hanno ridotto i finanziamenti alle banche, che quindi li hanno ridotti alle imprese, e poi appena è ritornato a una situazione normale sono stati in grado di far ripartire l'economia. Questo perché appunto i loro punti di partenza, questo si applica in particolare alla Cina ma anche a tanti altri paesi che chiamiamo emergenti, che hanno questi spazi di manovra. Ecco, Cina e Brasile sono paesi appunto che hanno degli ordinamenti politici diversi, hanno comunque imparato entrambi ad essere capitalisti, in fondo a sfruttare le regole del capitalismo, soprattutto sul fronte della politica monetaria. Sì, come dicevo, il comportamento dei responsabili della politica monetaria cinese è stato esemplare, da scuola occidentale. Certo, guardando al 2013, quali possono essere le incognite maggiori e quali possono essere le opportunità maggiori, magari partendo dall'Italia, con l'incognita italiana la sappiamo, è un po' quella politica, anche se è un'incognita parziale, perché è un'incognita che sappiamo che avverrà, vedremo cosa succederà dopo le elezioni, però sembra che comunque l'agenda Monti, come si chiama ormai, sembra possa essere salvaguardata sotto un certo profilo. Quali possono essere le incognite partendo dall'Italia in un mondo globale? Ma allora, partiamo dall'Italia, ovviamente appunto questo che hai appena menzionato della politica è che è un ritornello che sentiamo da quando siamo giovani. Certo. La politica è sempre stato il problema italiano principale. In questo momento, vista la disaffezione alla politica da parte degli italiani, potrebbe esserci un rischio che si riflette ancora oggi, secondo me, negli spread che vediamo nei confronti della Germania. Farei anche un piccolo inciso, insomma, di riconoscimento a quello che è stato invece quella che è stata l'agenda Monti, perché non è chiaro quanto questa agenda abbia inciso positivamente sull'andamento degli spread. Per fare questo occorrerebbe fare l'analisi rispetto agli spread della Spagna piuttosto che rispetto a quelli della Germania. Gli spread italiano nei confronti della Spagna è variato di circa 250 punti a nostro favore nel giro di un anno. Quindi abbiamo fatto i compiti a casa un po' meglio che gli spagnoli. Quindi, direi decisamente meglio. Ecco, quindi quell'agenda, ma con tante poi poi, come dire, puntualizzazioni sul merito. Io personalmente avrei sviluppato un po' più la parte equità e la parte anche crescita, certo. Però non si può non riconoscere un'agenda fondamentalmente centrata. Ecco, possiamo avviarci alla conclusione dicendo che forse il 2013 abbiamo le elezioni in Italia, abbiamo le elezioni in Germania in autunno. Alla fine del 2013, se tutto va bene, possiamo stare un po' meglio di questa fine del 2012. Beh, ovviamente è l'augurio di tutti e ovviamente anche il mio. Non so se è una previsione o una speranza. Ecco, perché ancora ci sono molti ostacoli. Appunto parlavamo del fiscal cliff, parlavamo comunque di possibili bolle, non ultimo quello di un possibile conflitto. Non dobbiamo dimenticare quelle che sono le tensioni geopolitiche che ci sono per esempio nei paesi nordafricani, Medio Oriente. Lì chiaramente è in gioco il prezzo del petrolio, che potrebbe essere... Dove schizzasse verso l'alto il prezzo del petrolio, chiaramente parleremmo di uno scenario che nella situazione attuale per l'Europa e per l'Italia in particolare creerebbe una situazione disastrosa in questo momento. Quindi... Comunque, guardando al passato, un modo di dare fiducia bisogna trovarlo. Allora possiamo dire che guardando le grandi crisi che abbiamo avuto anche in passato, comunque le persone, le società hanno avuto sempre una soluzione in più dei problemi che si presentavano. Sicuramente, e questo è il motivo per cui oggi siamo qui, che possiamo ancora parlarne. Io direi che comunque, per chiudere con una nota positiva riguardo l'Italia, ecco, io non sottovaluterei la capacità dell'impresa italiana di andare all'estero. Decisamente i dati di quest'anno sono inaspettati, ecco, rispetto a una situazione dove per qualsiasi impresa italiana era difficile ottenere credito. In realtà abbiamo una bilancia commerciale assolutamente positiva, con un export molto forte. Quindi... La microeconomia, in fondo l'economia delle persone, l'economia delle imprese, l'economia degli imprenditori, questa passione imprenditoriale che vince un po' sui grandi numeri della macroeconomia, che spesso attira un po' troppo l'attenzione, anche se giustamente l'attenzione. Quindi buon anno, diciamo buon 2013, buona chiusura del 2012 e buon 2013 a quanti ci ascoltano. Grazie a Demirio Rossi, buon anno a tutti. Che ci ha aiutato a capire un po' i grandi fenomeni di questa economia, che comunque resta uno strumento da utilizzare nella maniera migliore, ma non è colpa dello strumento se poi il guidatore va fuori strada, non è colpa dell'automobile se il guidatore la porta fuori strada. Cerchiamo di avere anche dei buoni guidatori per la nostra economia. Grazie ad Emilio Rossi, quindi Senior Advisor di Oxford Economics e Presidente di Aegon Partners. Grazie a Carmelo Loricella in regia e a Luca Cremonese in redazione. Questa è l'ultima puntata dell'anno. Buon anno a tutti, l'appuntamento è comunque per settimana prossima, con il primo appuntamento del 2013, e arrivederci.